Come si fa a dormire quando non va, quando non vuoi uscire senza di lui stai male. Oh, come si fa? Come si fa? Ti lecchi le ferite e butti giù pillole, cibo e fiele e speri che con lei non durerà. Sei gelosa, isterica, furiosa, livida, vorresti ucciderla. Sei scontrosa, acida, schizzata, comica, e guarda che madame. Ma dimmi come si fa. Come si fa? Ti sfoghi con le amiche, piangi per lui, lacrime misto, rime, le hai già sfinite tutte, lo odiano ormai. Come si fa a star così per uno che non è che un mitomane, neanche poi granché? Sei pungente, cinica, odiosa, perfida, non ti controlli più. Sei noiosa, critica, così polemica, ti rendi conto, dai. Come si fa? Non sei distrutta, scarica, depressa, apatica, sei sfatta come mai? Sei sciupata, cerea, lagnosa, querula, lunatica, ma dai. Ma dimmi come si fa. Ma dimmi come si fa. Come si fa?